Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Ça fait déjà un femme bail. Ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. Ce curieux sourire qui m'avait tant plu. Sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant se io vi dicessi che faccio parte di una lobby, anzi, se vi dicessi che gli ascoltatori di Melog sono una grande lobby, cosa pensereste? Pensereste sicuramente qualcosa di negativo, diceva, vedi, un gruppo di potere, un gruppo di pressione. Sì, è vero, facciamo parte di una lobby. Mi chiamò una melogmane milanese giorni fa dicendo di venire a Roma un fine settimana, sono sola, vengo a festeggiare i miei 50 anni. Dico, vabbè, ma è una tristezza, ti vuoi tagliare le vene. Attivai la lobby di Melog e già ci sono furiose melogmani che l'attendono, la porteranno a ballare il tango, la porteranno in giro per locali, insomma la faranno divertire. Ho fatto un'attività di lobbying, in qualche maniera ho mosso delle persone per creare un beneficio, per creare una possibilità che qualcuno che si appoggia, faccia parte di questa lobby, abbia dei vantaggi. Ho detto in termini molto rozzo, molto superficiale, in realtà la lobby è un gruppo di pressione, un gruppo di interessi, nella tradizione anglosassone è un termine visto con accezione positiva. Le lobby devono in qualche maniera rendere edotte le istituzioni, chi comunque ha possibilità di decidere leggi, regolamenti, di particolari interessi, particolari gruppi di persone, quindi mettere in comunicazione chi ha degli interessi con chi decida. Naturalmente in Italia questo non è regolamentato appunto da nessuna legge, tanto che leggo su Repubblica di 17 gennaio, proprio di pochi giorni fa, un pezzo di Andrea Rustichelli dove appunto fa un'inchiesta e stima che in Italia ci siano 1200 professionisti di lobby, quindi lobbisti a tutti gli effetti, che si muovono in una specie di cono d'ombra. Perché? Perché, come vedremo questa mattina, quando un italiano, uno cita lobby, subito pensa a qualcosa di negativo, qualcosa di oscuro, qualcosa di clandestino. E le lobby sono associate spesso ai più tristi luoghi comuni, le lobby dei finanzieri, le lobby degli stilisti gay, è stato detto, le lobby dei calabresi, le lobby dei napoletani, le lobby dei romani, le lobby dei bergamaschi. A seconda che si muovano gruppi con delle loro omogeneità o di origine di provenienza o professionali o di visione della vita o di Weltanschauung in generale, viene subito visto con qualcosa, come qualcosa che puzza comunque di setta, di gruppo segreto. Infatti, se guardiamo i sinonimi della lingua italiana del termine che è di origine anglosassone, lobby, lobby significa loggia, è un colonnato. Guardate, già se diciamo loggia noi pensiamo subito a loggia P2, pensiamo subito a qualcosa di che si muove negli apparati dell'ufficialità in maniera serpentina e in maniera nascosta. Fra i tanti sinonimi che vedo su Wikipedia al termine lobby, ne ho sottolineato qualcuno che mi dà l'idea di quello che è lo spessore del pregiudizio. Lobby viene inteso come consorteria, confraternita, setta, sodalizio, affiliazione, nei termini migliori anche come corporazione, aggregazione, compagnia, società, combinazione, cricca, mafia. Dire una lobby e dire una mafia, ah, quella è tutta una mafia, è tutta una lobby, cioè la lobby degli scrittori, quindi nessuno scrive. Ricordate Castellitto nel famoso film che stava stando al Costanzo Show, si alza isterico il povero aspirante scrittore, dice tutta una cricca, è tutta una lobby, non riuscirò mai a pubblicare il mio romanzo. E Costanzo dice, ma stattene un po' calmo, figurati, cosa c'entra, e via dicendo. Beh, questa mattina vorrei parlare di lobby e lobbismo, e vorrei spiegare nel termine esatto cosa significhi questo termine, quali sono gli italiani che si muovono come lobbisti senza doversi mettere un cappuccio nero in testa o dover strisciare lungo i muri mascherati, e cosa in realtà manca, qual è il vuoto che manca, perché il mestiere di lobbista sia un mestiere come l'avvocato, l'ingegnere, l'infermiere, l'idraulico e via dicendo. Il termine gruppo di pressione o gruppo di interesse ha nella lingua italiana un sinonimo acquisito dalla tradizione anglosassone, lobby. Il termine lobby viene usato correntemente anche per indicare un certo numero di gruppi, organizzazioni, individui, legati tra loro dal comune interesse di incidere sulle istituzioni legislative, in Europa presso la Commissione che ha sede a Bruxelles, negli Stati Uniti presso il Congresso di Washington. C'è un cartello di Ricchioni che ha deciso che l'anno scorso andava il rosso e quest'anno il blu. Pantaloni a coste che costavano al mercato euro 23. Oggi li trovi alla boutique, comprati dalle donne ricche. Sentite la differenza di passo, come cambia il significato. Il termine lobby nella sua filologica definizione è la canzone di Elio, La follia delle donne, che da corpo, scherzando e ridendo, come è giusto che faccia un cantante che usa lo strumento della satira e dell'irrisione come sua cifra stilistica più importante, il fatto che la moda sia definita da una sorta di cricca, di lobby di stilisti uomini con un grande disprezzo per le donne, che definiscono che quel colore o quel tipo di taglio di stoffa improvvisamente entra nelle boutique, diventi costosissimo, le donne folli vanno a comprare quello che poco tempo prima che lo decidesse la lobby, lo decidesse il gruppo di potere omogeneo e spietato, l'avrebbero pagato soltanto pochi soldi. Io non ho sovvenzionato un partito per romantiche nostalgie, io ho fatto un investimento che mi deve fruttare. Ah sì? Sì. In Parlamento tre voti possono essere determinanti per salvare un governo. Ora noi applichiamo il do ut des. Ma no, per Bacco, che trovata, eh? Che chi l'avrebbe pensato? Il do, il... Do ut des. Sì. Oh, dico, questo do dove si trova? Io ti do tre voti a te e tu mi dai tre appalti a me. Ah sì? Già, senza contare che a Rocca Sicca ci sono degli ottimi terreni comunali che attraverso il suo prestigio... Questo è Totò gli Onorevoli, dove già viene profilato il termine di lobby come gruppo di potere truffaldino che cerca voto di scambio, dà voto in cambio di appalti. Questo, diciamo, è l'aspetto criminoso, è l'aspetto che nulla dovrebbe avere a che fare con quello che è la professione del lobbista. Il lobbista non promette voti in cambio di appalti, ma porta comunque le istanze di alcuni gruppi e le sottopone, le propone a chi dovrebbe fare le leggi. 800 24 0024. Cosa pensate voi della lobby? Avete mai fatto attività di lobbying? Siete stati sotto pressione di lobby, considerando che comunque il termine nelle nostre locali accezioni ha un significato vastissimo, che spesso va a tracimare nelle aree oscure in cui la lingua definisce comportamenti non proprio regolari? Profano, hai meditato e compreso le dure leggi della massoneria? Sì, tutto quanto. Allora rispondi, cos'è per te la libertà? La libertà è difficile così all'improvviso. La libertà è come dire, insomma, la libertà è fare quello che mi pare. La libertà di parola, la libertà di stampa. Insomma, la libertà è una bella cosa. Peccato che ce ne sia troppa. E che cos'è per te la fratellanza? La fratellanza è l'amore per gli altri fratelli massoni. Che cosa devi a te stesso? E che cosa devi alla nazione? Nulla devo a me stesso. Tutto devo alla nazione, questo borghese piccolo piccolo che... nella sua miserrima istanza personale, trovare un posto di lavoro al figlio, si rivolge allo schifosissimo suo capo ufficio che dice: devi rivolgerti a persone che possono, che hanno potere. Quindi fare attività di lobbying, ma lobbying in questo caso significa proprio nell'accezione filologica loggia, e quindi lo porta in una scalcinatissima e improbabile loggia massonica dove gli fanno bere l'amaro Montenegro, che è la prova del veleno, e poi poverino il figlio finirà ucciso da una raffica di mitra durante una rapina. È un film tragico, però che dimostra quanto sia radicato profondamente, perché se lo è nel cinema, nella commedia, ai tempi di Totò, ai tempi di Alberto Sordi, il termine lobby è comunque inteso come un termine negativo. Sentiamo Stefano, primo ascoltatore, buongiorno. Buongiorno, io intervenivo perché ho un amico che fa il lobbista a Bruxelles. E lì è una professione normalissima. La lobby nella Commissione Europea? Certo, lì mi spiegava che il 50% delle leggi che arrivano in Italia vengono decise con 5 anni di anticipo a Bruxelles. Ci sono 15.000 lobbisti a Bruxelles, professionisti. Esatto. E mi spiegava che funziona in questo modo, cioè chi deve disegnare la legge ovviamente non è un tuttologo e quindi ha bisogno di una serie di consulenti che lo informino su quelle che sono le esigenze legate a questa legge. Il ruolo del lobbista è proprio quello di reperire queste informazioni, aiutandolo a capire come queste informazioni possono essere sinergiche alle aziende che lui rappresenta. Quindi, ed è un'attività, a mio avviso, che viene normalmente fatta anche in Italia, ma forse non ce ne accorgiamo, perché per un'azienda scegliere un fornitore, quali sono i criteri di valutazione, al di là di guardarne i servizi, è prendere informazioni su quel fornitore. Ecco che emergono figure di consulenze oppure di amici che dicono: guarda, quel fornitore, al di là di quello che mostra, è affidabile una volta che gli hai dato l'incarico. Ecco, perché noi invece siamo così portati a confondere il lobbista con quegli improbabili personaggi dalle dita marroncine alla nicotina che girano attorno ai palazzi del potere, oggi spesso accompagnate da procaci signorine che vanno, vengono, portano, invitano al ristorante. Insomma, perché il traffichino di palazzo oggi ha sostituisce nell'immaginario comune la figura del lobbista, che è un mestiere rispettabilissimo, secondo lei? Secondo me è frutto di una idea che ci facciamo noi da quella che è la cronaca che quotidianamente ci viene addosso, e quindi noi associamo a quello che è, diciamo, l'influenza, le cose che subiamo da quelli che sono i politici di turno che ci rappresentano, e tendiamo sempre a fare di un'erba un fascio. Quindi pensiamo che suggerire un servizio in modo corretto e bonario sia soggettato alla mazzetta o ai favoritismi di cui sentiamo parlare praticamente quotidianamente, indipendentemente da quale sia il colore politico. Grazie mille Stefano. Grazie Stefano. Sentiamo Roberto, che poi naturalmente le risposte le abbiamo. Sto ponendo le domande in tono provocatorio proprio per capire, voglio capire dietro qual è la percezione generale attorno a questo termine. Roberto. Buongiorno. Anche lei un lobbista? No, io sono un agente, lavoro in pubblicità e la mia attività si basa su avere tanti contatti, che sono i miei clienti, e a questi clienti propongo sempre la miglior soluzione per le loro esigenze. Quindi in qualche modo, secondo l'ultima testimonianza telefonica della persona che ha parlato prima, sì, sono una specie di lobbista, no, se vogliamo. Però rifacendosi al discorso della moda, visto che io lavoro prettamente con clienti moda, la moda sì è una lobby. E il successo di uno stilista viene determinato principalmente da alcuni direttori di titoli importanti a livello mondiale che decidono il bello e il brutto, cattivo tempo. Come dice Elio Storitese, è la lobby dei gay che sono tutti gli stilisti. Perché io adesso sto affondando le mani nel più terrificante dei luoghi comuni, lo dico perché dare fondo al luogo comune si viene a capire cosa c'è alla radice di un fraintendimento. Ma no, gli stilisti sono principalmente gay perché probabilmente l'omosessuale ha più sensibilità, manifestazione più creativa in questo tipo di mestiere. E ecco. Poi se le donne non lo fanno più, lo fanno gli uomini. Il stilista lo decide la Anna Wintour o la Sozzani o queste persone che sono grandi direttori di testate moda, e se vogliono far diventare famoso uno stilista che a loro piace per mille motivi e mille vincoli che ci possono essere, che le persone gli utenti normali non sanno e non conoscono, lo possono far diventare come, come dice Meryl Streep alla sua commessa, dice tu non sai dietro questo ceruleo del tuo maglioncino cosa c'è, tu l'hai comprato infeltrito a un mercatino, ma c'è uno studio di mesi e mesi perché arrivasse appunto nel mercatino. In certi casi dove c'è un lavoro enorme dietro alle manifatture della moda, la gente non se ne accorge, non se ne rende conto. Ci sono anche delle logiche razionali dietro al mondo della moda, molto irrazionali. È molto chiaro. 800240024, vedo che vi state scaldando attorno al termine lobby, ma chiamate anche, chiami anche chi ha un'idea negativa, chi è totalmente immerso nel pregiudizio che la lobby sia qualcosa di negativo. Io non difendo oggi il lobbismo, ma so che è un'attività che comunque all'estero è regolarizzata, è riconosciuta, istituzionalmente efficiente. Da noi mi pare che ci sia qualche incertezza a questo punto di vista. Questo ce lo dice il Franco Spicciarello. Franco Spicciarello, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è un lobbista a tutti gli effetti. Assolutamente, faccio il lobbista ormai da 9 anni, ho una società di consulenza nel settore, prima l'ho fatto per una multinazionale, prima ancora per un'associazione di rappresentanza. E lei è anche un docente universitario, insegna lobbying all'università? Sì, abbiamo formato alla LUMSA di Roma ormai 100 ragazzi con un master in lobbying e affari istituzionali che è partito nel 2004. Le partner lavorano tutti. Open Gate Italia, che è una società di lobbying di Roma. Sì, noi ci occupiamo di lobbying e regolamentazione, rispondendo un po' agli ascoltatori che hanno parlato fino adesso, vorrei fare i complimenti al primo che è intervenuto, che ha inquadrato perfettamente il fenomeno. Perché è un amico che lavora nella Commissione Europea, quindi sa di cosa si tratta. Esattamente, ma una cosa su cui vorrei precisare è quella che lobbista, cioè noi come lobbisti non dobbiamo difenderci, nel senso noi principalmente siamo dei professionisti, dei tecnici. Esiste l'ordine professionale dei lobbisti? Come no, si fa a diventare? E credo che non lo vogliamo nel modo più assoluto, ma perché pensiamo la maggior parte di noi che debbano essere aboliti anche gli altri ordini. Allora esiste la professione del lobbista in Italia riconosciuta? Assolutamente, esiste anche un'associazione che si chiama Il Chiostro, che riunisce oltre 150 lobbisti di tutti i settori professionali. Il Chiostro, per non dire la loggia? Esattamente, è proprio il chiostro di un palazzo, sì, il senso è quello. Ecco, mi faccia capire, qual è il motivo proprio forse di vuoto legislativo, normativo, per cui in Italia lobby non è ancora riuscito a entrare come in altri paesi del mondo nell'immaginario generale come una qualsiasi professione? Quando io dico, si muove una lobby, dice, ah, si muove una lobby, qualcosa sembra quasi di sotterraneo, illecito, misterioso, fantasmatico. Qual è il limite? Manca una legge, manca un regolamento? Allora, se mi permette, sono due ordini di motivi. Innanzitutto, il primo è che in Italia abbiamo un bassissimo tasso di cosiddetta active citizenship, di cittadinanza attiva. Gli italiani purtroppo hanno una scarsissima tendenza ad associarsi, a muoversi e a rappresentare i propri interessi presso i decisori pubblici. Quindi il problema primario è che non è che chi fa lobby, ma è proprio chi non fa lobby, chi non rappresenta i propri interessi, mi dispiace, poi è un problema se i propri interessi non li vede rappresentati. Cioè gli italiani scendono volentieri in piazza, fanno manifestazioni. Sì, ma finisce lì, non servono assolutamente fanno a nulla. Fanno gruppi in internet, poi figuriamoci da quando esistono i social network, ogni giorno centinaia di italiani sentono in dovere di esprimere il loro sdegno, però non succede nulla naturalmente. Invece il lobbista come opera? Mi spieghi esattamente qual è il mestiere, il lavoro, l'attività del lobbista? L'attività del lobbista parte innanzitutto da una profonda attività di studio, analisi, noi studiamo continuamente ricerche, dati, rapporti, normative, deve conoscere perfettamente il funzionamento dei processi decisionali dal punto di vista sia tecnico, cioè di come passa non solo una legge ma anche un atto amministrativo o una decisione dell'antitrust come dell'Agicom, l'autorità delle telecomunicazioni, deve sapere fondamentalmente tutto e deve essere in grado di essere il massimo esperto del settore che rappresenta, essere quindi in grado... Può fare un esempio pratico, concreto, per far capire un'attività in cui si è mosso e come si è mosso, così capiamo meglio. Faccio un esempio, alcuni anni fa la tassa che era prevista sui CD e DVD dopo un iniziale prezzo abbastanza alto era stata prefissata con una cifra standard, facemmo notare che stavamo praticamente, le aziende italiane che producevano CD e DVD stavano chiudendo perché la tassa con un prezzo fisso praticamente raddoppiava il prezzo del CD e puntammo su un sistema che fosse a percentuale rispetto al prezzo. Mentre il governo ragionava in ordine semplicemente all'entrata, noi facemmo presente innanzitutto una comparazione di come funziona negli altri paesi, i dati delle importazioni parallele dell'Unione Europea e poi il fatto che si stavano perdendo migliaia di lavoro. In Italia si chiudeva un settore manifatturiero. Purtroppo il governo, cioè purtroppo per fortuna, perché sarebbe un'utopia, un governo non può essere tuttologo, e il ruolo nostro è quello di saper rappresentare presso le autorità decisionali a tutti i livelli quali sono le problematiche e eventualmente anche proposte, perché un lobbista bravo propone soluzioni più che problemi. Quindi nulla a che fare, per quanto ci dice lei, con un'attività di pressione. Non è che si fa pressione, si cerca la persona. Si può fare, perché comunque sia, fondamentalmente, specialmente per un politico, e qual è il vero ricambio? Il politico vuole essere rieletto, e allora io dico sempre, la capacità dei cittadini, come anche delle associazioni di rappresentanza, è quello di, il vero ricatto che può essere fatto, la vera pressione è quella, io non ti rileggo la sanzione, vera, è quella politica per un politico. Quindi lei con dei numeri alla mano fa riflettere il politico sul fatto, guarda, che questa legge ti rende impopolare con tutto questo numero di potenziali elettori, quindi decidi tu. Oppure ti rende popolare, vediamola in un'ottica positiva. Assolutamente. 800240024. Stiamo definendo comunque quelli sono i termini dell'attività di lobbying. Ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. 800240024. Stiamo analizzando il significato reale del termine lobby. Stiamo analizzando quanto in realtà una percezione superficiale, il nostro paese associa l'attività di lobbying all'attività di pressione illecita. Molti mi stanno scrivendo, dice, soprattutto nella pagina degli SMS, dice, quelli che fanno lobby non con i numeri ma con i soldi in mano, come li chiami? Beh, li chiamo, che ne so, persone che esercitano un'attività di corruzione, ma naturalmente nulla a che fare. Il lobbista agisce allo scoperto, il lobbista è una persona che, almeno da quanto ci hanno detto finora i nostri ospiti, raccoglie informazioni, raccoglie dati, raccoglie numeri e poi li presenta a chi ha in mano appunto le chiavi dei processi decisionali, facendogli capire che in realtà alcune decisioni potrebbero dare alcuni risultati e altri risultati. Luisa, buongiorno. È pronto? Sì, buongiorno. Che piacere, bravissimo. Sento una mini considerazione che volevo suggerire ai lobbisti come motto, quello di sapere e potere. Vedo che lei è un filosofo, mi pare di capire che lei è un filosofo, Nicoletti, vero? No, non è vero. Capito. No. Vabbè, ma insomma parla... Ho studiato da idraulico nella mia vita. Ho studiato, bravissimo, da grande. E poi voglio dire due considerazioni per l'aspetto negativo che i lobbisti hanno, che invece si associa ovviamente a qualsiasi esercizio del potere che tende a diciamo moltiplicare se stesso, non solo, ma anche a sopravvivere a se stesso in tutti i modi. E credo che il sapere, la conoscenza sia la cosa migliore, però anche da un punto di vista invece attuale, è chiaro che, come diceva McLuhan, che in un sistema di comunicazione globale ogni notizia diventa un pettegolezzo e quindi anche i lobbisti diventano parodia di se stessi. E dall'altro, in un sistema di mercato globale... Non ho molto capita questa cosa, scusi, ma perché parodia di se stessi? È parodia di se stessi perché diventa un pettegolezzo quello di dire che la conoscenza, per esempio, di cui parlava quel simpatico primo ascoltatore e anche l'accademico, bravissimo, ultimo, Stefano mi pare che fosse il primo, e cioè quella conoscenza concreta e quell'esperienza e quella... Ma se io le porto dati... Sì, ma loro portano che... dati, hanno detto, non è che portano dati dicendo... Guarda, c'è un tot di aziende che producono CD che rischiano di fallire. Certo. Diventa una competenza reale magnifica, appunto, da pagare, e diventa a sua volta una specie di congregazione di esperti, come chiamarla. Ma diciamo è un servizio, oggi eccetera, sono eccetera, eccetera. Molte aziende che forniscono. La sento un po' confusa. Ah, scusi, no, mi dispiace perché sono in un ambito di silenzio del cellulare, purtroppo è terribile. No, ma noi la sentiamo però, guardi. Ma no, mi dispiace, comunque voglio dire che anche il mercato dopo è chiaro che invade tutti i sistemi e quindi diventa anche corruzione, ecco questo concetto. Senta, comunque complimenti, bravissimi, eccetera. Vabbè, voleva farvi due chiacchiere in libertà. Grazie Luisa. Pietro, buongiorno. Buongiorno, salve. Senta, io volevo portare la mia esperienza che ho fatto a Bruxelles quest'anno nell'ambito di un progetto Leonardo e diciamo effettivamente io ho sviluppato, ho conosciuto questo concetto di lobby che è totalmente opposto a quella che è la concezione italiana che noi abbiamo della cosa. Ecco, mi faccio un esempio concreto così capiamo un po'. Guardi, è molto interessante effettivamente da vivere come esperienza. A Bruxelles, per qualsiasi legge che riguarda l'Europa, che ha sicuramente un processo, un iter molto molto lungo, però in realtà esiste la tavola rotonda. La tavola rotonda è un concetto bellissimo, si ci siede tutti intorno a un tavolo, siamo tutti interessati all'argomento di discussione. E ma... tu chi lo fa? In realtà c'è un moderatore, chiaramente. Queste sono cose che vengono organizzate da istituzioni tipo il Comitato delle Regioni oppure il Comitato Economico e Sociale, che in una fase preliminare, diciamo, quando approcciano una certa legge, iniziano a raccogliere delle opinioni, dei pareri, per poter cercare di formulare un'idea che racchiuda in sé le varie opinioni che portano i differenti portatori di interesse. Perché chiaramente se io parlo per esempio del settore automobilistico, faccio un esempio a caso perché oggi si parla tanto di Fiat, allora io chiamerò sicuramente l'associazione dei produttori, ma chiamerò anche l'associazione degli utenti e chiamerò l'associazione ecologista e li faccio sedere tutti intorno a un tavolo. Ecco il concetto di tavolo. Ecco, qua presuppone comunque una mente razionale e capace a prendere decisioni basandosi su integrazioni, che sembra antitetico a ogni processo decisionale, almeno alle nostre latitudini. Allora, concordo. Il problema è questo: quando io ne parlavo con i miei amici italiani che venivano a trovarmi, quindi tutti i ragazzi comunque che hanno studiato, erano tutti legati a questo concetto negativo di lobby, intesa effettivamente come associazione di corruttori. E certo, Leandro, mandagli due mignottoni, risolvi prima. Ecco, perché questa è la prassi italiana. Io un'altra cosa che posso sempre portare come esempio è che in realtà quello che a noi arriva in Italia dell'Europa è nulla. Cioè la comunicazione, ecco, una cosa che l'Europa dovrebbe fare è riuscire a comunicare in Italia, o forse questo è proprio un volere politico, di non farci arrivare tutto quello che succede. L'Europa viene vista soltanto come un'istituzione che è lì e che sì, crea poi le normative problemi. Europee vengono viste sempre come dei vincoli, come dei problemi, sì, ma sa, dei problemi che non capiscono la fattispecie locale, quindi... Ma ne parlava prima una persona che è intervenuta. Effettivamente le leggi hanno un iter di 5 anni, da noi la legge arriva quando è bella e fatta e viene detto l'Europa ha fatto questo che è contro di noi, quando invece se le istituzioni italiane o effettivamente questi portatori di interessi si fossero seduti al tavolo 5 anni prima, avrebbero concorso a formare questa legge e quindi noi oggi non la subiremmo. Fermiamoci un attimo. Franco Spicciarello, senior partner di Open Gate Italia, società di lobbying italiana. Un suo commento su quello che si dice il nostro illuminato ascoltatore. Abbiamo degli ascoltatori che, se sollecitati su piani specifici, poi ci danno delle testimonianze importanti. Ma guardi, primo punto, così tagliamo la testa al toro, la corruzione. La corruzione è la patologia del sistema della lobby, ma è la stessa patologia che affrontano tutte le altre professioni, i rapporti incestuosi che ci possono essere tra avvocati e giudici, tra commercialisti e esponenti delle commissioni. Si è scoperto un medico chirurgo 3 giorni fa che amputava arti e organi non necessari per prendersi soldi, quindi c'era per tutto. Cioè. In questo caso quindi si scambia la patologia per la professione, teniamo distinte per bene le cose. Secondo, non c'è una regolamentazione, allora anche rispetto all'Europa, l'Italia e l'Europa sono due mondi completamente diversi. Questo è il punto, mancano dei regolamenti, sì. Fondamentalmente non si parlano, c'è chi dice ecco l'Europa ci ha costretto, ci ha posto dei vincoli, facendo un'analisi di 40 anni d'Europa forse dovremmo dire che ci ha tolto i vincoli che ci siamo sempre autoimposti in Italia su tante cose, liberalizzando molti settori con grandi vantaggi per i cittadini. Secondo, in Italia non c'è volontà di fare una regolamentazione, sono state fatte ben 30 proposte di legge in oltre 30 anni, la prima fu fatta da Pierichino addirittura, molti anni fa ormai, e ce n'è stata anche una da parte del governo Prodi, ma nessuna di queste è mai arrivata nemmeno alla discussione in aula. Anche perché, mi scusi Spicciarello, per 1200 lobbisti certificati che ci sono, ci saranno 1.200.000 aspiranti corruttori, venditori di salami, fornitori di puttane, cose del genere. Ma quello anche in tutti i settori commerciali, quindi ecco, per quello dico tenere separate i due ambiti. E poi ecco, alcuni anni fa diceva il politologo Pasquino che alcune lobby sono entrate in Parlamento, oggi la situazione è anche peggiore di questo, quindi non c'è nessuna volontà da parte della politica di regolamentare il rapporto con le lobby, perché regolamentare il rapporto con le lobby vuol dire anche regolamentare in termini di trasparenza la politica stessa. Ecco, il lobbista non ambisce ad avere una carica pubblica, lui deve essere una persona che entra in contatto con chi fa le leggi. Non sarebbe un controsenso un lobbista che si propone come parlamentare, ad esempio? Beh, ma anzi, facciamo al no, contrario. No, domando io, non lo so, lo sì, chiedo. Sì, assolutamente. Normalmente negli altri paesi del mondo, e anche lì in Europa, è prevista una norma contro la revolving door, cioè i politici o detentori di alte cariche istituzionali che escono dall'attività pubblica e vanno nel privato a fare il lobbista. Ecco, in Italia questo non succede per due motivi. A, la politica purtroppo in Italia è un lavoro per la vita. Quindi c'è sempre un consiglio non finisce mai la politica, è un'autorità cioè. Che aspetta il politico di turno anche trombato. Dall'altra parte è più difficile, il lobbista generalmente non aspira a una carica pubblica, si occupa di questioni principalmente tecniche, cerca di unire competenze tecniche di tipo giuridico, politico, sì, perché ha un mestiere, non gli serve di andare a fare il politico. Ma per farle un esempio, noi abbiamo un team fatto di giuristi, comunicatori, ingegneri gestionali, economisti, perché dobbiamo occuparci di molti settori dell'industria ed apportarci con tecnici di altissimo livello, quelli sì che lavorano particolarmente nelle autorità di regolamentazione. Antonio, sentiamo Antonio. Buongiorno Antonio. Buongiorno, buongiorno. A parte che un grande lobbista stamattina per televisione anche mi ha detto di stare sereno. Io lo so che il docente ha detto che non bisogna dare lobbista al politico, però io vorrei dire che mi sento sereno, ma questa è una battuta. Vabbè, adesso ci fa solo piacere. Ci fa solo piacere lei. Ma lei forse non ha capito di chi parlavo. No, io. Ma nemmeno mi interessa, vorrei tenervi sull'argomento. No, volevo dire solo una cosa, perché la lobby è quasi inevitabile. Il problema è un approccio mentale al problema, perché possiamo chiamarlo problema, in quanto la lobby diventa mentale nel momento in cui io mi arrogo di un diritto che mi hanno dato delle persone, un'associazione, via discorrendo. Se questo lo faccio per il bene della corporazione, mi va anche bene per il bene della collettività, della società, di quelli che sono i vostri associati. Ma come diceva lei e come dicevano i suoi ospiti, effettivamente molte delle volte era una nostra coscienza mentale dettata da certi meccanismi sbagliati, noi prendiamo coscienza e incominciamo a fare il lobbista nel senso negativo. Dico una cosa, io ho a che fare con gli ordini professionali e con gli ordini dei medici, sì. Dove attualmente le volte il presidente di turno, faccio un esempio, decide di sua spontanea volontà determinate cose, oppure detta determinate cose. Ecco, questo ma mi sta quello che ho capito io, se non ho capito male, in realtà, nel suo caso, i medici non dovrebbero fare loro lobby, dovrebbero rivolgersi a dei lobbisti professionisti dicendo questi sono i nostri interessi, questa è la nostra idea, muovetevi per fungere da cerniera di connessione fra noi e le istituzioni. 800 24 00 24, a tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Fabrizio, buongiorno. Fabrizio? Sì, eccolo. Buongiorno. Lei è un lobbista? No, diciamo che non lo sono di professione, però avendo ascoltato il precedente persona che aveva telefonato, posso confermare che a Bruxelles i lobbisti sono delle persone che trasferiscono delle informazioni reali sulle necessità delle imprese e dei vari paesi. Ecco, quello che mi viene a pensare è che in realtà se il lobbista è definito una figura professionale e agisce in maniera trasparente, pubblica, risponde pure della veridicità, dell'efficacia delle sue informazioni, il suggeritore silenzioso nell'orecchio di notizie riservate in realtà poi non ne risponde mai. Sì, questo è vero, dipende dalla professionalità delle persone. Io ho partecipato a Bruxelles a un incontro per valutare le priorità da dare nei finanziamenti europei nell'ambito del settore spaziale nel 2014. Oggi si cominciano a fare incontri, chiamiamoli di lobbying, ma sono incontri dove vengono invitate tantissime persone. Al primo convegno eravamo in 100, queste 100 persone hanno avuto l'opportunità di presentare, non tutte ma chi era interessato, le necessità specifiche nel proprio settore. Successivamente si creano dei gruppi, dei comitati, in modo che quando si arriverà nel 2014 l'Unione Europea ha potuto avere l'opinione sia di chi produce sia chi utilizza queste tecnologie, per cui lobbying significa portare questo tipo di informazioni. Presenti erano sia i produttori sia gli usufruitori di questi servizi. Sentiamo Vincenzo. Vincenzo invece, un altro punto di vista, una visione più tradizionale. Qua mi sembra di capire che il vero lobbista deve avere anche una fiducia illimitata nella propria sopravvivenza. Pensare oggi qualcosa che accadrà nel 2014 sembra lontanissimo dalle costumanze nazionali rispetto all'attenzione ai processi di formazione delle leggi. Vincenzo. Buongiorno a tutti. Ho ascoltato delle cose molto interessanti, quasi tutte condivisibili. Non sono state dette due o tre cose, mi piacerebbe raccontare. Le dica lei. Perché, no, ahimè, sono uno dei vecchi della professione, ormai sa, 58 anni, ho fatto solo questo nella mia vita. E, intanto nessuno ha detto, credo, perché non ho avuto il piacere e la possibilità di ascoltare tutti, nella seconda metà degli anni 80 io rappresentavo gli interessi non solo della multinazionale per la quale lavoravo all'epoca, ma anche della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana a Roma. Partecipai ad un'audizione in commissione lavoro sul provvedimento di riconoscimento della professione del lobbista. Quindi lei sarà già mosso in anticipo. Il collega Franco Spicciarello, che peraltro saluto, ci conosciamo bene. Sì, andiamo al punto, sennò dobbiamo chiudere. Ecco, volevo dirle, ci fu l'opposizione della Confindustria all'epoca. Non erano d'accordo? Non erano assolutamente d'accordo, dicevano che non c'era bisogno del riconoscimento della professione, in quanto la professione veniva ben rappresentata dalle associazioni. E che anno era questo? Che anno era? Siamo 86-87. È passato un po' di tempo, può essere che col passare del tempo poi cambino anche le organizzazioni. Però volevo a questo punto introdurre il professor Giovanni Guzzetta. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. È talmente attuale quello che stiamo dicendo sulla necessità comunque di osservare, vedere, analizzare, capire quella che potrebbe essere una eventuale riconoscimento all'attività di lobbying in Italia, che ci sono vari master in Italia proprio dedicati al lobby. In particolare lei è docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Roma Tor Vergata e dirige il master in processi decisionali e lobbying in Italia e in Europa, proprio a Tor Vergata. Come funziona il suo master? Tanto grazie per l'invito, ma soprattutto complimenti, perché mi pare che stiate trattando questo tema con grande, come dire, competenza. E con grande competenza. Davanti a me la voce Wikipedia lobbying, potrei non essere competente. Ma quello è, diciamo, il punto di partenza per tutti. Certo. Andiamo al punto. Come funziona? Come si diventa lobbista passando per il suo master? Come vede, il titolo del nostro master è Processi decisionali del lobbying, perché la nostra idea fondamentalmente è questa, che il lobbista è uno dei tanti soggetti che ruotano intorno ai processi di decisione pubblica. Accanto al lobbista, prima del lobbista, sopra il lobbista se vogliamo, c'è il decisore politico. Accanto al decisore politico ci sono tutti gli uffici di staff, i funzionari, i funzionari pubblici che si occupano. Tutti questi soggetti ruotano intorno allo stesso problema, i processi di decisione. Quindi la nostra idea è la professionalizzazione per questo tipo di attività deve essere una professionalizzazione che ha una base unitaria. Rispetto alle associazioni di categoria, come diceva prima l'ascoltatore, che dice che svolgono una funzione anche loro simile a quella della lobbying, cosa potrebbe essere dato in più dalla professionalizzazione della professione, la cacofonia del lobbista? C'è un problema proprio di conoscenza e di competenza e di qualità. Cioè molto è un passo avanti, ecco. Molto spesso i lobbisti, anche quelli bravi, si sono dovuti fare, come dire, una competenza artigianale su come funzionano i meccanismi di decisione, mentre è fondamentale conoscere la macchina, una macchina che è sempre più complessa. Lei pensi solo a che cosa significa la prospettiva del federalismo in termini di moltiplicazione delle sedi e dei luoghi di decisione. Quindi c'è già e si svilupperà sempre più la professionalità del lobbista che si occupa, diciamo, del livello regionale, di quello che si occupa delle competenze comunali, di quello che si compie, c'è già, come abbiamo detto. Ci danno elementi utili anche al più sfegatato federalista, è giusto che sappia tutto ciò che sarebbe come ricaduta rispetto a un suo disegno ideale, ipotetico, ideologico di federalismo. Un esempio faccio, perché lei ha citato il federalismo. No, come funziona la macchina è fondamentale anche per il più sfegatato federalista, diciamo così. Ecco, con quale titolo si accede a un master in lobby? Cos'è? Laureati in giurisprudenza, in economia e commercio? Per capire. Sì, fondamentalmente le lauree principali sono... Un ingegnere gestionale, mi viene da pensare, ecco. Prego? Un ingegnere gestionale potrebbe anche essere un buon lobbista. Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo, il lobbista, come avete già detto, ha la funzione di squadernare gli interessi e squadernare le conoscenze relative a quegli interessi. Bisogna ricordare che i lobbisti non sono solo, come dire, quegli arcigni personaggi che si occupano di far aumentare i dividendi delle imprese, ma ci sono gruppi di professionisti delle relazioni pubbliche anche con riferimento a organizzazioni non governative, associazioni di consumatori, cioè tutti i soggetti che in qualche modo sono interessati a che ci sia una buona qualità dei processi di decisione e che siano tenuti in considerazione gli interessi che vengono rappresentati. Noi nel nostro master abbiamo avuto vari docenti che fanno attività del lobbista per conto di organizzazioni non governative, cioè di soggetti che non hanno finalità di lucro ma che si occupano... Anche un'associazione no profit potrebbe fare un'attività di lobbying. È molto chiaro, professor Giovanni Guzzetta, che ricordo ha istituito il master in processi decisionali e lobbying in Italia e in Europa all'Università di Tor Vergata. Beh, avete capito qualcosa di più? Probabilmente sì, io di sicuro, perché fino a un'ora fa non sapevo esattamente cosa significasse fare attività di lobbying. A domani. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.